da Bocci, quello che venivano a noi, no? Mi ricordo come fu Saggeri, di venivano a giocare a spalle di lei, no? Ma adesso anche a noi, perché non potevo, non è come adesso che potevo, scappare via di casa da ore, in mano di carabinieri a cercarlo. Mi partivo la mattina, venivo da mezzì, partivo dopo di snare da Bocci a giocare e venivo la sera, che era quasi no. Sassi, che potevano di Sassi, dalle bande, della sacrosanta verità, dove che venivano i tornichelli della strada, vedevi i carabinieri, ma c'erano i carabinieri, ma passavano la macchina ogni tanto, chi viene in bicicletta, come viene sui carabinieri in bicicletta, non viene tutta l'altra banda. È la verità, ma non noi sono tutti i Bocci del Bisella dove veniva su due. E tuo papà che andava su con le pecore anche Castiane, eh? Sì, perché sì. Mesibu che aveva la macelleria e teneva le, oddio, gli vendeva qualche castrato Stiani, perché non era mica... Non era mica tanti soldi da comprare, no? Arriva zio, no? Zio macellaio, tanti gli pagheva, ma tanti noteva, sala. Ecco, ieri stai lì con i libri pieni dei nomi, con i soldi da ritirare, allora le na Bolzano. Sì, scannuccia lì che va su e chi vive anche le bestie, ne vive a pascola, che vive in erba. E sempre, mi sono sempre, ho passato la mia vita sempre in campagna, sempre. A Filone, mi va che dalle 8 ero sempre, vo sempre anche adesso, anche prima, è tardi, dalle 8, vo sempre buon'ora nel letto. Ma che n'era di qui che stava su, ma neanche da putella, no? Era stracca quando era la sera, perché ne avevamo in campagna, dopo bisognava venire, era la vacca da Mulzer, bisognava andare al casello, dopo ne avevamo a messa, anche perché era la funzione, la sera non era, non è che era una messa sola, no? Allora che era la messa prima, che era la messa seconda, che era il vespro, che era la sera, che teneva, ma era in sesa, insomma, da più di adesso. Le Bocci tenevi in giro scalzi da maggio a fumare so case, te bruseva la lingua. E con Grandin, allora scendevano dei volti, perché di macchine non ve ne era, moto non ve ne era, da un volte in un bar, sulla radicata. La mora ve ne era tutta tanta gente, la mora, la scaletta era mora fin mezzanotte. Gli anni 60, poi quando si è cominciato un pochettino a lavorare, allora sì, ecco, la 500. Ah, le piante che era su, allora hai conto. L'era che è la campagna, si va dentro dalla porta del castello. Che è tutta quella bella campagna che va via. Piazza Grande, poi sì, un campo di tornei, beh. Ghera, tre figheri, ti ricordati? Sì, neri dalla gozza, che era buonissimi. I più buoni, i più mauri si rimaneva i merli, io detto, ma dopo rimaneva la merla. Rimaneva, che era speciale. Dopo te le ricordi quelle 3-4 brugnere che erano in cima, che le feva sulle brugne grosse così. Mi ricordo che erano alberi e... Dopo che era il Saiben, una pergola di Saiben. Drio al Nur, un verso Bulgaria, che era una pergola di Saiben. Saria Ua che non l'avevi intrattata. Quella lì non ho, la ven senza trattamento, sai? No, era nera. Ecco, quella. Anche la maniva per la sete, perché aveva in sete, ma il più tanto se la maniva gli oseretti, perché ne era dentro una marea di oseretti, di tutte le, anche i cotorni, ma sì, anche il nido dei cotorni. Del torrione che era più busi di venga, ne era il nido una volta che era gran cosego dietro a mio papà. Ma papà, dico, ma chi è che fa il nido così da grande? Ma non vede che hai i cotorni? Ci sono temi di cotorni, io li sentiva cantare, io perché era cazzatore, li sentiva cantare e li ho visti. Bene. Dopo me che era dentro nocciole e nos donoghere, dentro un fondo. Come sapica quell'uno era la noghera? Era una noghera, ma quella noi non avevamo. Mi ha trovato un picà uno, dentro una noghera. E non è più in fornienti, è messo tutto in Morris, guarda. E anche a tedeschi da trovare, gli hai disperato lì al Mars a dirgli che è su, gli sta ciappando qui spaventi. Un po' rocche era deciso di finirla lì, guarda. Beh, noi non gare, l'era Zanna Noghera, non era tanto, guarda, sta così, ma con gli altri era così, quelle dentro in fondo. Sì, che erano ciole e dopo che era le fraghe l'era piantine piccole cosita a Narsù gli sa vive a Narsù per Bravanese per la sua seconda no era ben fraghe buone sì l'era piantine grande cosita vara o deva tante di quelle piaie la mia cavera quando veniva lì per mangiarsi l'ina diceva via che maloni e le veniva grosse così vara non era una fraga selvatica no. Non era una fresca. Sì, ed era roba di stiani, sì. E dopo che mi ricordo mi anche il Perelger, che anche non veniva roba buona perché veniva lo coltiveva anche. Sì, no? Ecco, si vede che vive, forse era anche orto. Stiani, tanti anni fa era anche orto, forse aveva anche le fraghe, non so. No. Ben fiori che era le bocche del leone. Quelle che era, quelle me le ricordo, quelle che era. Che ne era qualche pianta di quelle, de come fiori, dopo, oddio, fiorellini de bosco, de campagna, ma se no che mi ricordo mica era proprio le bocche delle onche, lei era blu, azzurre scure. No, la parte coltivata mi penso che sia stata proprio lì, perché che era lì, i frutti, insomma, ancora. Sì, da quelli del Castelli. Sì, le stiani, roba da stiani ancora. Beh, era delle noccioline, le veniva lunghe così, sotto, proprio in decantome, il secondo torrione che viene fuori, sai? Sai che dice? Sì, era pieno, poi senza cura, senza niente, sì. Cresceva su, ma le era talmente buone che basta, varane. Le era lunghe, invece che tonde, sa? Le era lunghe così, vara, belle noselle. Che era quelle piante lì che mi ricordo me. Dopo dentro alle quattro stagioni, che era una vigna, che la era cosita, dentro attaccata al muro, ma che era tutte le siepi, tutte le spine, non si potevano aggredire. Sì, quei rovi lì, quelle sì. Beh, ma che era, l'era una negrera, era una negrera, la feva le piche grande cosita, ma anche non era mai stata trattata da niente, neanche quella, no. Dunque, quella, anche quella si la mangiava Zoe Oseletti quando era matura, perché non si poteva neanche andare le belle, no, dai spini che erano, perché si feva la pulizia, ma non si neva mica, magari ci ha passato un sasso sulla testa per andare, l'era vero qua, insomma, Castello. Era niente, le mossole, noi gaiven che potevamo mantenerne una bestia. Col fen del castello noi ne mantenivamo una cavera, una vacca. Quello gaiven, ma ti dico che quel che non resterà, anche le visighe sulle mamme, le volte mi veniva. E che diceva, sono stufa papà, mi deve restare tutti questi sassi, dai che non posso segare, non ho rotto il ferro con tutti questi sassi, deve restare trafforzarsi. Perché che dico che i sassi li treva, li va su. I bocci li treva dappertutto, si ritireva anche, mi dico. Ecco, noi neva su, sì, neva su, i bocci, feva qualche giro, qualche volta troveva anche la porta d'averta, no perché la lasciava in noi da verta. Se no si veniva dai muri. E se no si veniva dentro dai muri. I bocci. Salteva su dalla prima porta veniva su e salteva su, no, era anche da... Ma sì, sai, allora non era altro, eh.